Это был третий эпизод йога Health Care. Siamo bene stamattina. Mi rendo conto che ho la testa leggermente più per aria del solito. E riniziamo. Mi ripresento. Ciao, sono Barbara. Questo è Yogurt Acid Care. È il terzo episodio di questo progetto che reputo una visione estensiva e fluida della pratica yoga, intesa come una modalità di caring, quindi cura della persona radicale, che include testa, corpo e spirito, applicata in un contesto non idilliaco, che è la società urbanizzata e frenetica in cui viviamo. Questa è la seconda ondata di lockdown e questo progetto nasce in funzione di questa seconda chiusura. Siamo di nuovo in balia di eventi, virus, politica, economia, bloccate più o meno in casa a fare la vita delle sciure. Possiamo andare dal parrucchiere, possiamo andare al giornalaio a fare una spesa. Possiamo lavorare, tutto il resto, neanche tutti possono lavorare. Se siamo fortunate possiamo ancora lavorare perché il lavoro è una fortuna, a quanto pare. Insomma, questo 30 minuti mattutini sono il mio contributo per questo breve lockdown ed è un percorsino abbastanza facile di 14 giorni. Che vede una serie di mantra e pensieri sani per la nostra mente, che sono portatori di un prana molto alto, quindi energie e frequenze alte che ci aiuteranno in qualche modo, si spera, a settare la nostra attitude, il mood, l'umore di ogni giorno in una maniera bella alta e positiva. Ogni episodio va in onda alle 10 di mattina e poi è subito in archivio sia sull'archivio di Radio Virus che sul mio Mixcloud, per cui no problem se vi perderete un episodio, lo potrete rintracciare in maniera molto semplice. Ogni episodio è un po' a sé, ma anche hanno un fil rouge, quindi l'ideale sarebbe fare l'intero percorso, ma non è un ordine, nel senso ognuno fa un po' quello che vuole. Mi piacerebbe fare un piccolo disclaimer che durante la scorsa lockdown facevo in ogni intro, ma questo giro l'ho un po' lasciato per scontato e un po' me ne pento. Io non sono una teorica dello yoga né una storica della disciplina. Quello che adesso sto facendo è condividere con voi quello che in qualche modo adesso aiuta me. Sono una praticante e insegnante di yoga abbastanza devota, ma non ho nessuna conoscenza elevata qua, se non un briciolo di curiosità e interesse personale che sviluppo e mi piace condividere perché mi fa sentire bene a me. Quindi penso che magari uno su 10 tra di voi si potrà sentire come me. Thank you. durante questo percorso ho introdotto anche i 7 switches for happiness, i 7 interruttori per la felicità. Abbiamo visto i primi due e oggi andremo a vedere anche il terzo. Il mantra che ho scelto per oggi è Soham. È un mantra semplicissimo che adesso andremo a spiegare. Prima di introdurre l'argomento di oggi, mi piace di nuovo ripetere questa frase. Doesn't matter, oggi è lunedì, poi ci sta a pennello. Doesn't matter how yesterday was and how today and tomorrow will be. Just be ready for it. Non importa come ieri è stato o come oggi e domani saranno. Ciò che importa è che tu sei pronta. È lunedì, dai, ce la possiamo fare. Allora, due parole sui mantra. I mantra sono il cibo per la mente e per l'anima. Sono delle parole o ripetizioni di parole o frasi che hanno una connessione diretta con l'anima, sia per il suono e le vibrazioni connesse al suono. Infatti si dice che abbiamo una serie, tantissimi, non mi ricordo esattamente quanti, più di 50 meridiani sulla lingua che permettono delle vibrazioni di un certo tipo, e quindi ogni suono riverbera su un meridiano di un certo tipo, sia sono importanti come significato, inglobano dei significati trascendentali molto profondi. Si dice che questi mantra vadano recitati 108 volte perché simbolicamente i 9 pianeti si muovono attraverso le 12 costellazioni, creando 108 diversi effetti sulla nostra vita. Ho citato durante le scorse puntate l'epoca di Kali Yuga e oggi, prima di parlare del mantra Soham e prima di fare la meditazione e parlare del terzo switch, vorrei spendere due parole su questo periodo storico, perché il primo e il secondo mantra che abbiamo citato, che sono Om Namah Shivaya e Om Mani Padme Hum, sono due mantra che parlano comunque di distruzione, trasformazione e elevazione rispetto al fango. Cosa significa che siamo nell'epoca di Kali Yuga? Secondo l'interpretazione della maggior parte delle sacre scritture induiste, tra cui Veda, il Kali Yuga è l'ultimo dei quattro Yuga. Yuga significa epoca. Si tratta di un'epoca oscura, caratterizzata da conflitto, ignoranza spirituale e violenza. Quest'epoca dura più o meno 430.000 anni ed è iniziata 5.000 anni fa, più o meno, nel 3100 avanti Cristo. È l'ultima delle epoche. Kali non è la dea, Kali è un demone. Ci sono state alcune profezie riguardo quest'epoca, sono profezie vecchissime per cui non è niente di ciarlatano contemporaneo, ma sintetizzato dicevano che i governatori sarebbero diventati non ragionevoli e non giusti. La gente avrebbe iniziato a migrare cercando dei paesi con delle risorse maggiori. L'avarizia sarebbe diventata comune. gli uomini come umani avrebbero iniziato a mostrare arroganza, ignoranza tra loro. La gente inizierà ad avere pensieri di omicidio e morte senza giustificazione e questo sarà accettato. La lussuria e la bellezza saranno viste come socialmente accettate e la sessualità diventerà il centro della vita. Il peccato crescerà esponenzialmente, la gente diventerà dipendente da droghe e altre forme di intossicazione. Il meteo e l'ambiente si degraderanno col tempo. Insomma, un sacco di profezie che non sono così lontane dalla nostra epoca. Quindi, andiamo avanti. 2 secondi per digerire questa informazione e introduciamo il mantra di oggi che è Soham. Soham, ne ho parlato anche durante gli altri episodi ed è un mantra molto facile, molto semplice. Significa io sono quello, I am that. È un mantra che risale più o meno al 1000 avanti Cristo e si trova negli Upanishads. È un mantra di respiro ed è anche in generale un aforisma filosofico piuttosto importante per i Veda. Viene associato alla pratica nuova, a quelle persone neofite di questa disciplina, per settarsi in maniera profonda con quello che è that, quello, ovvero la realtà ultima. Stimola molta concentrazione, è un mantra che si può performare ovunque, in qualsiasi circostanza, camminando, facendo qualcosa, riposando. La scuola vedica ha interpretato questo quello, that, del mantra come l'universo, quindi come dicevo prima, la realtà ultima. Questo mantra simbolizza una connessione radicale di ognuno di noi con l'energia universale che ci supporta e ci nutre costantemente. E allo stesso tempo torniamo nel concetto di oneness, l'unità. Io sono uno con l'universo e con tutta la creazione. Questo acuto che mi è uscito, terribile. Insomma, Soham invita ad espandere il proprio sé dal concetto di individuo al concetto di unità con l'universo. È un'espansione da una situazione limitata di costrizione a una situazione di libertà. So rappresenta l'energia maschile, non sto parlando di sessualità o genere, sto parlando di energia maschile, quindi quella del sole. Ham rappresenta l'energia femminile, quella della luna. L'unione di queste due energie è la realtà ultima dell'universo. Quando siamo in una situazione di vulnerabilità, in cui abbiamo bisogno di supporto, amore, protezione, il mantra Soham potrebbe essere una grande soluzione, non immediata, chiaramente lo yoga non è una medicina curativa, ma è più una pratica di supporto laterale. Inserirei un piccolo mudra connesso al mantra Soham. Nel mantra Soham si parla di ego. Io sono quello, è una negazione del proprio ego in qualche modo. I mudra sono dei gesti simbolici che vengono usati per ottenere dei benefici sul piano fisico, energetico e spirituale. In questo caso inserirei il Jnana Mudra, che è il classicissimo indice pollice uniti con il palmo della mano verso l'alto e le altre tre dita stese. Perché inserisco questo mudra di nuovo? L'indice nella simbologia dei mudra dello yoga rappresenta l'ego, l'io. Il pollice, l'uno, l'universo o realtà ultima. In questo gesto l'io si piega, fondendosi con l'uno. I am that. Ci prepariamo alla nostra pratica, troviamo una posizione confortevole, ma prima ancora facciamo qualche movimento per flessibilizzare il nostro corpo. Quindi inspiriamo, tiriamo sulle braccia, muoviamo la cassa toracica in maniera circolare, facciamo qualche stretching del lato del corpo, allunghiamoci, muoviamo anche le spalle, il collo e se abbiamo la possibilità facciamo qualche movimento anche con il nostro pelvis. Una volta che abbiamo trovato la nostra posizione confortevole, che può essere seduta o sdraiata, ci prepariamo a una pratica yoga nidra per connetterci con l'interno, disconnetterci dall'esterno e sensorializzare il nostro corpo. Ok, Chiudiamo gli occhi e rivolgiamo tutta l'attenzione all'interno. Inspiriamo ed espiriamo solo con il naso e vediamo come l'addome si muove. Inspirando si dilata leggermente ed espirando si sgonfia. Percepiamo tutti gli appoggi del nostro corpo con il pavimento, il tappetino, la sedia o quello che è. Senza giudicare né interagire, osserviamo le sensazioni. Osserviamoci così, sedute completamente dritte o sdraiate in una posizione corretta, e rivolgiamo poi le nostre attenzioni e i nostri sensi all'interno dei piedi. Li sentiamo da dentro a fuori ed espirando li rilassiamo completamente. Sentiamo poi la parte inferiore delle gambe. E ancora una volta, espirando, la lascio andare e percorro con il mio respiro la parte superiore. Lascio andare entrambe le gambe, le sento di meno, mi danno meno fastidio. Rivolgo i miei sensi al pube e all'addome. Rilasso completamente il pube e l'addome, gli organi interni, poi il diaframma. Passo al torace, espirando lascio andare le tensioni dalla cassa toracica, polmoni, sterno, clavicole, spalle. Rivolgo i sensi alla colonna. Espirando rilasso completamente ogni singola vertebra, dalle sacrali fino alle cervicali. Poi percorro la parte superiore delle braccia, la parte inferiore, espirando rilasso entrambe le braccia, arrivo alle mani, sento e distendo ogni singolo pezzo delle mie mani. Lascio andare le braccia, le mani, il torso, le gambe, sento questa parte del mio corpo molto meno e rivolgo la mia attenzione alla testa. Sento e rilasso i capelli uno a uno, poi la superficie del viso. Lascio andare le tensioni anche dalla bocca. Sento l'interno della bocca, percepisco la lingua, le labbra, i denti. Dischiudo i denti e le labbra ed espirando il mio viso è sorridente e raggiante. Sento l'aria attraverso le narici, il percorso interno. Ed espirando rilasso le vie aeree, poi gli occhi, le palpebre, le sopracciglia, distendo i movimenti oculari. Infine rivolgo la mia attenzione e tutti i miei sensi al centro della fronte, dove accumuliamo tutte le attività del pensiero che visualizziamo e sentiamo sotto forma di onde e tensione. All'altezza dell'Ajna Chakra, tra le due sopracciglia, al terzo occhio. Con qualche respiro più profondo cerco di fare spazio a questa parte del mio corpo, appiattire le vecchie onde neurali per far spazio a nuova attività. Il mantra Soham si pronuncia durante inspiro ed espiro. È un mantra principalmente mentale. È complicato pronunciare durante l'inspiro per i nuovi praticanti. Immaginiamo questo suono nella nostra testa, pronunciamolo mentalmente. Quando inspiro faccio so ed espirando hum, so hum. Non forzo le sillabe a una velocità particolare, ma le inserisco all'interno del ritmo del mio respiro. Durante la pronuncia dei mantra non deve esserci tensione. Inspirando penso so ed espirando am. Continuo, pronuncio il mantra mentalmente finché una campanella mi inviterà a lasciarlo andare. Mi ricordo il significato. Io sono questo, nel senso che sono in evoluzione costante con l'universo. Il mio ego si piega alla sincronicità del cosmo. So am. Lentamente abbandono il mantra, faccio qualche respiro più profondo per rilassare il mio corpo, risvegliarlo, riconnetterlo. Faccio i movimenti necessari per risvegliare tutte le parti del mio corpo in maniera molto dolce. La meditazione di oggi si conclude qui. Prima di chiudere l'episodio, mi piacerebbe parlare 2 secondi del terzo switch per la felicità. L'aforisma di oggi è: Let go of things do not serve you. Lascia andare le cose che non sono utili. Cose in senso generico, inteso come pensieri, situazioni, persone, emozioni, tutto ciò che non è utile nel senso che non ha un fine specifico o non ci crea una sensazione di bliss, gioia, felicità, pienezza, abbondanza. Lasciamo andare tutte le cose che non ci sono utili. proviamo durante la giornata di oggi a chiederci quando un pensiero ci attraverserà la mente, se questo pensiero ci creerà dell'ansia. Chiediamoci, questo è un pensiero utile? Nel senso, ha uno sbocco immediato in qualcosa di utile, in un'azione, in una risoluzione utile? Non ce l'ha? Bene, cerchiamo di lasciarlo andare con qualche espiro più profondo. Cambiamo il focus della nostra attenzione. Direi che possiamo chiudere qui. Grazie per avermi ascoltata sproloquiare e fare un sacco di gaff live con questo cavolo di coso senza un mixer reale, con tutti questi aggeggini che devo toccare col mio trackpad che odio tantissimo, però grazie lo stesso. Cerchiamo di mantenere questo mood durante la giornata. Ci sentiamo domani, bevete acqua, stay safe, ciao!